as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Del Pane e delle Rose, la trasmissione degli operai metalmeccanici di Radio Città Fucico. Più metalmeccanici di noi oggi non c'è proprio nessuno. Infatti nell'Assemblea Nazionale del giornale di marzo, abbiamo fatto la scorsa settimana una puntata dedicata dell'area di estrema sinistra della CGIL, giornale di marzo, mi raccomando a tutti gli iscritti alla CGIL, simpatizzanti che vogliono far parte di un'organizzazione, un'area che vuole cambiare la CGIL, vuole renderla più conflittuale, mi raccomando, contattate su internet le giornate di marzo e troverete tutti i contatti per poter aderire e partecipare a tutte le iniziative che questa area svolge in tutta Italia. Ora, in questa assemblea ho incontrato Mimmo Loffredo, delegato storico della FIO di Pomigliano d'Arco. Con lui vi ho fatto tante battaglie, ci conosciamo da tanti anni, è un compagno, un amico. Sono anni che seguo la questione di Pomigliano d'Arco, non solo con lui, ma con altri compagni, e con lui abbiamo parlato degli scioperi che ci sono stati. Pomigliano d'Arco ha visto un risveglio di scioperi molto riusciti, cortei in fabbrica, erano un sacco di anni che non veniva una rivolta del genere da parte di tutti i lavoratori. La FIOM è riuscita a coinvolgere anche insieme agli altri sindacati, gli altri in realtà molto meno, hanno anche boicottato questi scioperi. Si è visto comunque la maggior parte dei lavoratori aderire a questi scioperi, andare avanti e cercare di trovare una soluzione a tutte le problematiche che oggi Mimmo ci racconterà dopo questo bellissimo pezzo musicale. Grande Pino è sempre ai nostri cuori. E sentiamo Mimmo che ci spiega che sta succedendo, e poi Emiliano d'Arco. A dopo. Sangava, ma la vita s'ha da faticare, ma la Allora, ciao Mimmo. Allora, siamo qui con Mimmo Loffredo, delegato della FIOM di Pomigliano d'Arco, dello stabilimento Stellantis. Insomma, è un po' che ti volevo intervistare, perché stavo seguendo le vostre vicende. Pomigliano c'è stato molto, molto, negli ultimi mesi ci sono stati degli scioperi, c'è stato un risveglio anche dei lavoratori su molte questioni. Noi, sai, abbiamo sempre seguito, per noi Pomigliano è uno stabilimento importante, insomma, uno dei stabilimenti più importanti di automotive in Italia. Vogliamo chiederti, insomma, raccontaci un po' quello che è successo. Allora, la fase è cambiata completamente anche perché c'è stato un aumento esponenziale dei ritmi di lavoro. Noi oggi abbiamo una fabbrica che paradossalmente, dopo anni e anni di cassa integrazione e contratti di solidarietà, oggi ci ritroviamo con 20 turni in alcuni reparti, 12 in altri e inoltre un accordo capestro firmato ancora da FIM, UILM, FISMIC e UGL. Anche sulla mezz'ora di mensa che oggi è diventata una mezz'ora di lavoro in cambio di un pagamento di un ticket. Quindi i ritmi sono aumentati Scusa, tantissimo. ma adesso prende la mensa quando è che mangia da mangiare? Allora, la mensa, con questo accordo la mensa di fatto per alcuni lavoratori, perché non vale per tutto lo stabilimento, quindi c'è una divisione, ma chi fa i 20 turni di fatto la mensa non la utilizza più. E questa è una cosa molto grave per quanto ci riguarda perché riteniamo un diritto inalienabile dei lavoratori, in particolare per quelli che magari per arrivare allo stabilimento viaggiano anche tanto, è oggettivamente un problema non indifferente. E su questa base, insomma, è chiaro che abbiamo anche una reazione da parte dei lavoratori diversa. Abbiamo di fronte a noi dei lavoratori molto più disponibili e disposti chiaramente a lottare perché vedono la loro vita stravolta dal fatto che sono entrati in questa fabbrica lavorando dal lunedì al venerdì, 7 ore e mezzo, inizialmente con la mensa a metà turno, se la sono ritrovate poi a fine turno, oggi si ritrovano a fare 20 turni, quindi lavorare di sabato e di domenica, aggiungendoci anche l'ultima mezz'ora di lavoro. Quindi tutto ciò, diciamo, crea uno scompiglio generalizzato, nel quale ovviamente proviamo in tutti i modi a mettere in campo delle iniziative. Proprio su questo aspetto, noi per esempio abbiamo messo in campo delle iniziative, nel contratto collettivo specifico, che è il contratto che purtroppo abbiamo nel nostro, settore, cioè quello automobilistico in Italia, di fatto, è tutto previsto, quindi il 18° turno, il 20° turno, sono tutte cose che non c'è bisogno nemmeno di fare accordi con i sindacati a livello aziendale perché già sono previsti all'interno del contratto e molto spesso questa cosa non viene nemmeno chiesta ai lavoratori su cosa si pensa, cosa si fa, cioè è un automatismo, l'azienda comunica ai sindacati firmatari che c'è un aumento di turnistica e automaticamente entro 15 giorni poi quell'aumento di turnistica diventa realtà. Chiaramente questo è un primo aspetto che fa incavolare i lavoratori che vorrebbero partecipare, vorrebbero dire la propria. E poi ovviamente la differenza col CCNL è che tu per esempio questo tipo di accordistiche le vai a trattare a livello di stabilimento, magari chiedendo anche degli aumenti economici per sopperire magari a questo tipo di esigenza aziendale di maggiore produzione. Invece in questo contesto specifico è tutto previsto e noi abbiamo messo in campo ad esempio delle lotte per quanto riguarda i turni di sabato notte, domenica pomeriggio e domenica notte, che sono dei turni compresi nel 20° turno, dove c'è un elemento specifico che viene dato all'interno del CCSL, che varia dai 25 euro ai 40 euro e noi abbiamo chiesto ad esempio che su quegli aspetti bisognava trattare di nuovo perché erano elementi che sono stati decisi nel 2011 e sono rimasti tali tutt'oggi e per noi quegli elementi sono assolutamente inadeguati alla fase che stiamo vivendo e ai sacrifici che si chiedono ai lavoratori. Cioè se si vuole far lavorare i lavoratori di domenica è ovvio che devono essere pagati in un certo modo e sicuramente non con 40 euro in più come fa la nostra azienda. Insomma, tu mi stai dicendo che Stellantis, a fronte, no, perché abbiamo visto sui giornali questo grande aumento che vanno dato, questo incremento, in realtà questo incremento se lo stanno pagando tutto, perché si sta chiedendo un aumento di ritmi, più lavoro, 20 turni, alla fine Non so se ci avete guadagnato realmente. No, allora io sicuramente rispetto al contratto collettivo nazionale in questo momento, ovviamente poi ci sarà come dire, il rinnovo del contratto collettivo nazionale e si vedrà insomma come andrà a finire quella partita, però in questo momento noi paradossalmente in Stellantis guadagniamo qualcosina in più grazie a questo accordo, però sta di fatto che, e questo dovrebbe essere di sprone anche per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale dei lavoratori, cioè questi aumenti non sono bastati a far fronte all'aumento inflattivo che abbiamo avuto in questi giorni, in questo periodo, e quindi di conseguenza diciamo tutto quello che abbiamo guadagnato in più è diventato solo maggior lavoro, ma di fatto non ha sopperito alle mancanze di salari che erano già bassi, perché in Italia stiamo parlando di salari molto bassi in tutta le categorie di lavoro, quindi fondamentalmente noi non facciamo eccezione su questo aspetto. L'unica cosa che i lavoratori realmente vedono è un aumento dei ritmi produttivi e un aumento della faticosità, quindi questa cosa spinge i lavoratori chiaramente a chiedere qualcosa dai sindacati. Poi va detto che la lotta in Stellantis non può essere una lotta fatta stabilimento per stabilimento, dovrebbe essere una lotta generalizzata di tutti gli stabilimenti Stellantis, e purtroppo in questo noi registriamo che non in tutti gli stabilimenti abbiamo le stesse condizioni e sicuramente le stesse forze, e questa è una cosa che ovviamente frena anche la nostra lotta a Pomigliano, dove avremmo sicuramente la possibilità di poter spingere in avanti questo tipo di battaglie. Ovviamente continueremo a fare la nostra parte, continueremo a rivendicare maggiori, da un punto di vista economico, diciamo, una remunerazione maggiore per i lavoratori, a fronte ovvio anche degli aumenti che ci vengono chiesti di turnazioni, però è chiaro che stiamo mettendo in discussione il CCSL facendo questa battaglia, ed è di conseguenza che Stellantis non cederà facilmente su questi aspetti. Dunque questa è una cosa che è un po' triste, perché alla fine i problemi vostri sono problemi anche degli altri stabilimenti, perché i 20 turni, io sto pensando alla Sevel e anche in altri stabilimenti come Melfi, anche lì insomma c'è molto malumore, ma anche dal nord Italia gli stabilimenti insomma Stellantis sono tutti in subbuglio. Se pensiamo che in Stati Uniti hanno dato tutti quei soldi, hanno fatto quella battaglia, è un po' triste che non si riesce a coordinare. E quella è un'altra cosa che fa arrabbiare tanto, perché poi è vero, ci sono degli aumenti salariali, si va a guardare il confronto con il CCNL, si dice che si guadagna di più, però si guarda, come dire, a chi è già povero, cioè ai lavoratori italiani, ma quando andiamo a guardare a quello che accade in una multinazionale come la nostra, senza nemmeno arrivare a quello che è successo negli Stati Uniti, che è stato diciamo per noi un qualcosa di molto grande rispetto agli aumenti che hanno ottenuto con le lotte che hanno fatto, ma se già guardiamo a cosa succede per esempio in Francia e a come vengono pagati i premi dei lavoratori francesi rispetto ai premi dei lavoratori italiani, notiamo già delle differenze enormi nello stesso gruppo e facendo di fatto lo stesso lavoro per la stessa azienda. Quindi è questo che poi fondamentalmente mette in discussione quelli che sono gli aumenti salariali che si sono ottenuti, perché i lavoratori non sono stupidi, guardano, ascoltano, sentono cosa accade oltre Manica o addirittura negli Stati Uniti, e ovviamente riparametrando questi valori, queste situazioni alle nostre condizioni, è di conseguenza che c'è un'arrabbiatura da parte dei lavoratori che emerge. Noi non siamo pessimisti, perché anche negli Stati Uniti la situazione era drammatica, adesso c'è un risvolto positivo negli ultimi periodi. Io penso che questo può accadere, dobbiamo fare una battaglia, sia entrambi siamo il comitato centrale della FIOM, dovremmo spingere la FIOM a fare una battaglia di coordinamento delle lotte all'interno del gruppo Stellantis, e lo faremo anche davanti ai cancelli Stellantis, sperando che si allarghi la sinistra sindacale dappertutto, questo che ce l'auguriamo. Sì, indubbiamente, anche perché io reputo diciamo fondamentale una battaglia all'interno del gruppo Stellantis. Ricordiamoci che in questo momento Stellantis sta licenziando di fatto migliaia di lavoratori in tutti gli stabilimenti attraverso delle uscite incentivate, manda email a dei dirigenti per mandarli via, e quindi di conseguenza noi abbiamo una situazione in cui il mondo dell'automotive sta cambiando velocemente, e noi come lavoratori dobbiamo dare delle risposte per far sì che questo tipo di cambiamento non sia un cambiamento subito solo ed esclusivamente dai lavoratori, ma si deve aprire un fronte comune in cui si difendono gli indotti e si difende. L'orario di lavoro che deve essere diminuito e non aumentato come sta accadendo per esempio a Pomigliano e sicuramente i salari che devono aumentare. Ti ringrazio Mimmo, alla lotta. Ciao. Nove maggio, mi scurtata, t'hanno vista che tornava insieme a Nat. Non mi sente, non mi pensa, tengo cuore che non può portare pazienza. Dall'anima c'è un sospiro. Fanno dire tu e non mi fida. Non ci pezza mai pensare sto fatto. Tu non mi crida. Arabi in mano e vira. Cava caccia una lacrima. C'è un respiro. Fanno dire tu e non mi fida. Non ci pezza mai pensare sto fatto. Tu non mi crida. 9 maggio mi scordata. T'hanno vista che tornava insieme a Nat. Non mi sente, non mi pensa, tengo cuore che non può portare pazienza. 9 maggio, mi scordata. T'hanno vista che tornava insieme a Nat. Non mi sente, non mi pensa, tengo cuore che non può portare pazienza. Nove maggio. Nove maggio. Nove maggio. T'è scordata. T'hanno visto che tornavo insieme a Nat. Non mi sento, non mi pensa, tengo d'oro che non può portare pazienza. 9 maggio. Arabo l'occhio e vita. Capo trasi dall'anima. C'è un sospiro. Fanno dire tu in un po' fida. Non c'è pazza mai. Non sa sto fatto. Tu non mi crede. Tu non mi crede. Allora, abbiamo ascoltato Mimmo, bellissima la canzone dopo l'intervista di Mimmo 9 maggio di Liberato, è uno dei miei artisti preferiti, questa canzone è fantastica. Poi il 9 maggio per me è una data molto molto molto particolare, molto particolare. Chi mi conosce, chi segue la trasmissione sa a cosa mi riferisco. Mimmo ci ha raccontato quello che sta succedendo a Pomigliano. Ora, cosa dire? Me l'aspettavo, è triste, è dura, non ha nessun senso dirlo, no? Tutti i telegiornali, i giornali hanno parlato di questo aumento, questo CCSL, abbiamo visto la FIM, la UILM, gli altri sindacati UGL, FISMIC, dire, avete visto? Alla fine questo CCSL così bisfrattato, avete fatto anni di scioperi perché insomma c'è questo. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che l'FCA ex Fiat non è più, nel contratto nazionale ed è uscita fuori da Confindustria e da Federmeccanica in questo caso, e dunque ha un contratto suo di settore ad Automotive FCA, un proprio contratto che dovremmo fare una puntata, qualche volta lo faremo, in cui dobbiamo spiegare che è un contratto, ne abbiamo contestato per anni e continuiamo a contestarlo, è veramente un contratto, chi l'ha firmato quel contratto sono dei matti completi. Infatti è vero, inizialmente non ha portato molti soldi, ma c'è stato un forte aumento, adesso non ricordo di quanto, comunque un bel aumento contrattuale, anche perché c'erano spinte all'interno dell'FCA, visto che il contratto nazionale dei metalmeccanici comunque ha portato dei soldi, e dunque anche loro hanno dato un buon aumento, c'è stato importante. E però alla fine Mimmo ci ha spiegato che questo aumento ha portato una situazione insostenibile, cioè 20 turni, ma per noi che viviamo a Bologna è qualcosa di inconcepibile, cioè si vive in fabbrica, siamo passati dalla cassa integrazione a 20 turni, non solo, ma si ha spiegato Mimmo benissimo, anche la mezz'ora, si sono presi anche la mezz'ora di pausa per mangiare, era fine turno, adesso non c'è più, gli hanno un ticket, cioè per molti non c'è nemmeno, non c'è più il diritto alla mensa, ti hanno monetizzato la pausa mensa. E non solo, io vorrei solo dire, se avete letto quello che sui giornali hanno scritto in tanti, è che fondamentalmente Stellantis sta dicendo che se lo Stato non continua come ha fatto per anni e anni e anni a pagare per tenere aperti gli stabilimenti, chiudono, sono a rischio. È chiaro che Stellantis ha la testa ormai in Francia, e io che lavoro in Buonfiglione ne so qualcosa di questo, però non solo i lavoratori verranno spremuti come dei limoni, ok? Ma verranno spremuti come dei limoni, ma si rischia anche che alla fine di questa spremitura potrebbero anche chiudere, se il governo non ci metterà dei soldi, non pagherà di nuovo, così come ha fatto per tanti anni Agnelli, anche questi nuovi di Stellantis, per sopravvivere per qualche anno. Cioè, questa non è la soluzione, c'è bisogno che all'interno del sindacato si faccia un ragionamento molto più conflittuale, molto più che si guardi in avanti, non c'è futuro con questi padroni, questi hanno in testa di spostare tutto in Francia e tutto all'estero. E intanto vogliono sfruttare i lavoratori il più possibile, dando una mancia, perché una mancia per le condizioni di lavoro che oggi si trovano i lavoratori a Melfi e tutti gli altri stabilimenti, Pomigliano, in Sevel, cioè per come lavorano è una mancia, per la turnazione, cioè, che distrugge il lavoratore a lungo andare. Ecco perché bisogna che ci sia una riflessione, questo è il momento veramente di nazionalizzare sotto il controllo operaio, perché non vedo altre possibilità, se non vogliamo che piano piano chiudano tutti gli stabilimenti cominciando da Mirafiori. Questa è la riflessione che noi facciamo, abbiamo bisogno di un sindacato molto forte, io e Mimmo questa cosa la sappiamo e nel nostro piccolo cerchiamo di costruirlo, chi vuole deve lottare come noi. Un appello a tutti gli autori metalmeccanici, perché se c'è un sindacato forte e conflittuale molto probabilmente si riescono meglio ad affrontare queste situazioni di crisi, e i padroni gli viene meno voglia di chiudere e portare tutto all'estero. La prossima puntata. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar a ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución!